Quest'anno ci sarà la 13ª edizione del campo lesbico di Agape, dal 17 al 21 aprile, appunto ad Agape, che si trova in provincia di Torino, ma abbiamo qualcuno che ci racconta più da dentro, insomma, il tema di quest'anno, che cosa succederà. Ciao! Ciao, ciao a tutte le ascoltatrici. È sempre un piacere per noi partecipare alla vostra trasmissione tutti gli anni. E appunto sì, quest'anno il tema del campo sarà Rifigurazioni corporee, corpi, spazi e sessualità, e appunto saranno questi bellissimi 4 giorni e mezzo di riflessione sul corpo lesbico, come lo viviamo, come viviamo lo spazio lesbico, quello che vogliamo cambiare, quello che abbiamo già cambiato, insomma. Questo sarà un po' il corpo, sarà il tema portante. Molto interessante il tema, sì, di quest'anno, mi sembra anche azzeccato per i, sì, tempi che viviamo. Esatto, ci sono sempre un sacco di tabù, abbiamo deciso che ora basta, bisogna un po' scardinarli, perché le femministe ci sembravano più libere a volte, quindi è bene parlare di questi argomenti. E poi insomma ci saranno un sacco di altre cose interessanti, come appunto proiezioni dal Centro Fair Cake, il Festival del Cinema Lesbico di Bologna, poi verranno le Badola a presentare la loro serie Relazione a Catena. Ah, laboratori, bello. Sì, no, sarà pienissima roba, sarà lo spettacolo sociale, licenziamento poetico con Mica Male Teatro, un sacco di laboratori, yoga, fotografia, sex toys, ciclo officina, tango, veramente quest'anno siamo pienissime, tutto riferito abbastanza al corpo per quanto era possibile, per quanto altro era insomma la presentazione di quello che succede ora anche in Italia. Ho visto... Perché appunto Agape è questo, poi, no? Un avvenimento unico nel suo genere e fondamentale. Ho visto che c'è anche uno spazio immagini, desideri, identità, corpografie lesbiche, che è un... sì, quella da sarà suggestioni interessanti. Sì, è molto. Quella sarà una delle plenarie della mattina, a cura della staff, appunto sarà portata avanti da me e Alessia Moroni, e poi ci sarà un altro bellissimo percorso esperienziale sul corpo, appunto, e sul vivere il lesbismo, fatto a tappe, molto divertente, interattivo, insomma, cercheremo di farvi divertire. Poi ci sarà il 17 con Medin, una mostra fotografica, la famosa pesca. Di autofinanziamento, lo spazio libico, la libreria delle donne di Bologna, appunto perché autofinanziamento, perché volevo ricordare proprio anche per la filosofia di Agape e della struttura che ci ospita, che noi siamo tutte volontarie e che quella struttura va avanti per il volontariato, e quindi insomma noi siamo molto contenti perché quest'anno dopo poco più di 15 giorni abbiamo fatto sold out, c'è già la lista d'attesa, sì, proprio le iscrizioni sono finite tutte. Quindi ti so, niente, non c'è più posto. No, in realtà il posto fondamentalmente forse ci sarà, perché se la lista d'attesa ci sta che poi qualcuno all'ultimo abbia degli impegni, alla fine è sempre la settimana di Pasqua, però siamo molto molto contenti, vuol dire che la risposta c'è, il 13ª edizione, quindi sono circa 11-12 anni che va avanti questo campo, insomma la staff è molto molto contenta. È vero che c'è stato anche un cambio del, diciamo, della guardia tra virgolette nella staff qualche anno fa, esatto, generazionale molto molto importante, anche il pubblico, c'è stato un grande cambio generazionale, però insomma effettivamente c'è posto per tutte. Io quando facciamo poi le verifiche finali, l'entusiasmo che vedo insomma è grosso, di questo veramente ci commuove, senza scherzi, davvero siamo molto felici. Quindi possiamo solo dire alle nostre ascoltatrici di mettersi in lista d'attesa e sperare. Sì, ma poi c'è un'aspettativa, già a gennaio appena apriamo le iscrizioni tutte sono lì, cioè proprio i primi giorni è una cosa incredibile, quindi insomma noi ringraziamo tutte per l'affetto e la partecipazione. Ci vediamo a Pasqua e poi magari ci risentiamo per sapere com'è andata. Eh beh sì, a questo punto sì, facciamo un report. È vero che abbiamo qualcuna delle nostre che viene su, che è Alessia, quindi sì, magari poi sì, la bracchiamo insieme a te, ti chiamiamo e ci facciamo raccontare Agape di quest'anno. Quindi ricordiamo la 13ª edizione del campo lesbico di Agape, e Agape si trova sui monti, in un posto tra l'altro meraviglioso, bene, in mezzo alla natura verde, che anch'io so perché ho avuto la fortuna di andarci per un anno, e niente, quindi vi auguriamo un buon campo, buon lavoro per questi. Sì, se qualcuna fosse ancora interessata a iscriversi, magari appunto certo, in lista d'attesa, diciamolo. Comunque basta andare sul sito www.agapecentroecumenico.org e lì insomma ci sono altre informazioni, numeri di telefono. Noi abbiamo anche una pagina di Facebook che è appunto Campo Lesbico di Agape. Insomma, se le informazioni in qualche maniera si raggiungono. E beh, direi di sì, vedo che se la lista, se avete fatto sold out, le informazioni le lesbiche e le altre donne le hanno trovate. Sono arrivate. Poi ci sono tante lesbiche che vengono, no? Non è una 74, piccola. No. 74 posti più 74, la staff e le relatrici, insomma, un centinaio ci si arriva. È un avvenimento davvero unico, perché insomma 100 lesbiche sulla neve a Pasqua, sì, senza TV, senza distrazioni, sono una bella botta di energia. Sì. Va bene, noi ce l'hai trasmessa questa energia e meno anche male. Le nostre ascoltatrici, ti ringraziamo tantissimo e allora ci sentiamo presto. Va buon bene, lavoro e buon campo. Voi. Ciao. Grazie, ciao.